Nuovo mese, nuovi appuntamenti con collagene, proteine culturali. Il primo evento di febbraio, tra l'altro, sarà proprio domani e siamo qui per parlarne con le curatrici Carolina Altilia e Alessandra Merolla. Bentornate ragazze. Ciao, ben trovati. Come dicevamo, appunto, il primo appuntamento di febbraio sarà domani 8 febbraio. Chi ci sarà all'interno degli spazi di Via del Porto? Chi li animerà? Allora, martedì 8 febbraio ospiteremo Avidia, da analogico a digitale e da digitale ad analogico, di Alice Cittarella e Davide Guglisi. Un progetto che già di per sé è multidisciplinare, rimanendo un po' in linea con la natura di collagene, in quanto prevede un'interazione tra diversi linguaggi, video, audio, testo, luci. Alla base vi è proprio il testo, da Sendak a Ferlinghetti, da Prevert a Salinas e poi ancora Ginsberg, per raccontare una storia che ha a che fare con il sentimento di disillusione dell'essere umano rispetto alla vita. Un percorso organico guidato dalla voce narrante di Alice, attorno alla quale si sviluppano architetture di suoni fatte di incursioni elettroniche e architetture di luci progettate dalla light designer Roberta Mastroluca. Il secondo progetto di questo appuntamento invece si intitola Sera, una videoproiezione che sarà mandata in loop durante il corso della serata. L'artista Paoli De Luca si concentra sul binomio cinema e fotografia per indagare il rapporto tra individuo e realtà, in particolare esplorando la percezione che ciascun individuo ha della realtà, della propria e di quella circostante. Attraverso questo pensiero Paoli sviluppa quello che è uno dei punti focali della sua ricerca artistica, ovvero l'identità di genere e l'inclusione delle diverse identità corporee. Prosegue poi la rassegna di febbraio con l'appuntamento di martedì 22 con un doppio progetto, Memorie dal sottosoviet e Assemblea. Esattamente, il 22 febbraio ospiteremo questi due progetti, Memorie dal sottosoviet di Cosmic Queers. È una performance di spoken word e musica live. Attraverso la narrazione poetica ed escursioni musicali, i Cosmic Queers ci portano in un viaggio dal sapore nostalgico, in URSS esattamente, nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, avvicinando uno Stato che ci sembra così lontano e diverso come la Russia, appunto, alla nostra sensibilità, alla nostra cultura più romantica, sfaccettata, europea. E l'Unione Sovietica in questo senso diventa, nella narrazione poetica, un mondo fantastico, uno scenario del possibile in cui parlare di grandi temi come l'abbandono, l'ambizione, l'amore, la sessualità e portandoci a riflettere sulle nostre fragilità in un certo senso, le nostre imperfezioni ma anche i nostri valori. La cosa interessante è che la linea temporale tra passato, presente e futuro, oltre che quella geografica, viene superata attraverso la narrazione di ricordi, di vissuti che diventano vividi e presenti nell'atto performativo. E poi il 22 febbraio ospitiamo un progetto dal carattere molto sperimentale, Assemblea di Wuxu. Wuxu è un collettivo di artisti e ricercatori cinesi con base in Italia e il collettivo sviluppa la propria ricerca su temi e argomenti sociali, ma con un respiro ampio che riguarda l'Europa e l'Asia orientale in particolare. Nei loro lavori attivano diversi dispositivi legati ai linguaggi del contemporaneo, mostre, installazioni, video, e lavorano su istanze universali come l'esclusione e la marginalizzazione di alcune categorie sociali, il lavoro artistico e culturale e la parità dei diritti. E adesso porteranno una vera e propria operazione artistica, un cortometraggio girato dal collettivo Migrant Workers Video Collective di Pechino e il video è stato prodotto da questo collettivo che vuole in qualche modo contribuire a diradare la cortina di fumo in un certo senso sulla situazione dei lavoratori migranti in Cina. Allo stesso tempo vuole documentare la capacità di lotta e autodeterminazione attraverso il coinvolgimento stesso dei lavoratori, degli intellettuali, degli artisti. Bene ragazze, dopo aver parlato un po' degli eventi che animeranno lo spazio di collagene a febbraio, volevo cercare di riflettere anche insieme a voi sul ruolo delle arti contemporanee nello spazio pubblico proprio oggi al tempo della pandemia. Quindi vi chiedo qual è secondo voi questo ruolo delle arti contemporanee e perché oggi è importante tutelare i linguaggi artistici artistici, quando poi le urgenze, diciamo così, dichiarate sembrano altre ad oggi? Grazie Rachele per questa domanda, di cui mi assumo la responsabilità della risposta. Allora, secondo noi oggi più che mai lo spazio pubblico rappresenta una risorsa, un riferimento per la comunità attorno alla quale nasce, un contenitore di istanze plurime, diversificate, sociali, artistiche e culturali in genere. E secondo noi, in questo senso, i linguaggi dell'arte contemporanea nello spazio pubblico hanno un ruolo necessario, perché rappresentano un modo per interrogarsi su quello che viviamo, accendendo punti di vista e sguardi inaspettati, profondi e a volte ruvidi. La pandemia ha fatto emergere situazioni e paure collettive, probabilmente, che forse già esistevano, ma attraverso il lavoro degli artisti e la loro ricerca ci offriamo in qualche modo una grande possibilità, quella di lasciarci attraversare da modalità di lettura delle realtà o della meta realtà che stiamo vivendo, perché a volte sembra di vivere in un film distopico, in modo diverso, laterale, mi viene da dire, da come siamo stati educati a fare. E in questo senso l'arte e la ricerca artistica ci offrono delle chiavi di lettura e di codifica, a volte spiazzanti, creative e comunque mai scontate. Io personalmente lo trovo in qualche modo rassicurante. Per rispondere alla seconda parte della tua domanda, se ho capito bene, è importante preservare e tutelare i linguaggi artistici, perché certo le urgenze sono il lavoro, la casa, l'economia, la produzione a tutti i livelli sono necessarie, ovviamente, ma crediamo profondamente che sia altrettanto un'emergenza affrontare prima di tutto ciò che ci accade dentro, e in questo senso il lavoro degli artisti e la loro capacità di dotarsi gli strumenti per agire i cambiamenti e le criticità, crediamo sia uno stimolo e una possibilità per tutti, anche in una situazione difficile come quella che stiamo attraversando. E quindi hanno un grande compito, e abbiamo tutti un grande compito in questo momento, che è quello di valorizzare, ascoltare il lavoro e la ricerca artistica in generale. Grazie ragazze. Grazie a voi, grazie a te Rachele.